siete. No, de una, hijo. ¿Cuánto tiempo vine a hablar contigo? Es un hueco bueno, a ver. Ahora pilla un hueco bueno que no vea cómo llega aquí, punto 7. Eli, Eli, ¿qué? ¿Cómo va? Un sol de pavo, tú no, igual que siempre, ¿no? Ay, ay, la realmente no llegaste tú a escucharme, a ver. Sí, pues tú llegabas aquí bien. Esto me rinde. Que antes de irme a comer, estuve yo aquí hablando con el RC. ¿Ayer? Estaba bajando en Panamita. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo voy a tener que vaya a dar un poste de máquina. Vabbè, dillo, butta giù la pasta che è pronta. Allora io a mangiare. Ui, Tore. Sì, buonasera. Buonasera, buonasera. Io date caldo a mangiare. Sì, piace nel caldo. Mi sono appena alzato, adesso mi ho fatto una pizza e mezzo chilo di gnocchi con mozzarella. Ai tu, ma che sogamo, vado viraggio. Ah? Che sogamo? Beh, anche male viraggio. Ma non lo so, che puoi essere tutta questa roba. Chico! Perché io stasera devo andare a lavorare per lo pieno, non vado a casa da tomare con vuoto. Chico! Oi, Mariuccia! Cinco, cinco, cinco! Ma mettimi fuori a cinco! Ma come vuoi fare da ramazzo a Gesù? Ebbè, Manuè, ciao attore. Ehi, buonasera. Allora, noi ci stiamo mangiando tra poco, eh. Ebbè, lui, ehi, me, sto già mangiando. Già, da te. Luca! Sì, la tua mano bacia, dimmela. E come vuoi che te la dica? E dimmi, l'hai chiamato, dimmi. Io so che ti dica. Andiamo, vai, andiamo, cazzo. Ma io Maria non l'ho più sentito, no. Tu hai sentito là? Sì, una settimana fa. Sai che era? Manuele, di servizio, sì. Sì, stanotte, anche ieri l'ho di servizio. Ah, non capito. Ma dove sei, sempre là? Sì, sì, sempre a concorrere. Adesso un amico mi ha proposto di mandare il curriculum da un posto, vediamo un po'. Mandalo, però c'è sempre che si derambe, è un bel turismo, odorlu. Beh, vabbè, ascolta, lo so, e se qui va? Nulla, è che si sta giù di tuo, la vuole quello lì, non vuoi altro, e devi fare su, di bre. Ci ho messo la faccia per far entrare una persona, l'ha preso tutto quanto, ha fatto il colloquio, doveva fare la visita del lavoro e non si è presentato, ha chiamato e detto che aveva avuto già travaglio. Certo, ma che figura di merda mi ha fatto. Dal giorno ho detto, boh, mai più lavoro, andatevelo a cercare il lavoro. Lo vediamo, boh, perché la... come si chiama quella che ha preso l'appalto? Da scoprirsi. Esatto, adesso l'ha presa un altro e vediamo un po'. Proprio il curriculum, Manuel. È un casino, cazzo, fare questo lavoro che faccio io. Quindi se mi alternano i turni, adesso vedi, la mattina invece perché svegliarmi così tardi, poi potrei fare il turno di sera. Quello adesso, 14, 20, ma 14, 22, 8 ore. Ci sono turni da 10 ore. Sì, ma lì fai i turni che faccio io, sono i turni che fai per fare il turno di mattina, due turni di mattina, che fai dalle 6 alle 2 e mezza, poi puoi fare, poi ti fa fare il secondo turno dalle 2 e mezza, 22:30, poi il terzo turno fai 22:30, 6:30. E vabbè. Gesù, quindi facciamo un mestiere. E allora dove? Che c'è? Vabbè, lì alla fine vai pulito, te ne vai pulito. Vabbè, ma so di più quello di ore. E magari le lascio di manco. Vero, Manuel? Cos'è? Certo. Da portare al pane. Le ore sono 6 ore. E gli dai 8 ore. Bisogna venire di là, ci sono di più o di manco. Io, a fa pressione, magari sarà di più dove prendeva. Qui ti danno quelle 5 euro a ora, prendi quelle 1040 facendo tutto al mese, massimo 1080. Non so se gli conviene a lui. Oh, hai cappiato il burro, Anche per quello, bisogna vedere se gli piace il lavoro. Io avevo 23 anni, 24 anni quando ho iniziato a fare questo lavoro qua. Ma non avrei nulla, è meglio. Passa il popolo e poi è meglio ricchi. Ma lì se ci sono le regole che ci sono per sopra. Chi stai parlando? Grazie. C'è Luca e Emanuele. Buonasera a tutti, dai. Sempre Lucrezia. Attenzione che non arrivi. Ma questa è l'anno scorso, eri in testa d'Italia, eri. Cosa? In testa d'Italia eri l'altro giorno. Ma l'anno scorso. L'anno scorso? Sì, a Capodanno, già non arrivi. Ah, è vero. No, lo stavo pensando come spettatore. E adesso che punti domenica c'è Mario alle 90, ci devo andare. Tu non ci vai. Ho capito, dopo. A ripunti c'è la festa, sabato e domenica. Sabato c'è signor Agnese e Cabari, e domenica c'è Mali anni 90. Sì, sì, sabato sì, domenica ni, non lo so, vediamo se sì. C'è da divertirsi, dai. Io ci vado lo stesso, anche se l'amico con cui esco deve lavorare, non me ne ha fatti nulla, tanto quando suonano non si può nemmeno parlare, non si capisce nulla. Da 2 secondi già, che devo... ti mando una foto un attimo, che magari forse a te possono interessare, forse ti capita qualcuno, boh, se ti mando una foto. Avanti tu, che vado a prendere il telefono, che incazzo. Un caso di proprietà. Ci fissa dei pulsanti. No, non mi sto spostando. Mi ha mandato una foto e devo andare a vederla, la butto, non so cosa sia, dopo la guardo, allora là. Se sei solo, non c'è Emanuele. Ma se carigendi. Per me si sta guardando il pesce. No, dove se sta mangiando. Manuele, mangiando stai ancora. Manuele! Ah, vuol dire che sei rilassato. Mi dica se brucia. Aspetta, se no ancora non ho voglio vera gaggio. Ah, c'ho il coso acceso. Un po' di freschetto me lo sto prendendo. Io lo devo, io devo pulire i fischi. Perché quest'anno non ho avuto tempo. Devo smontarlo, pulire il filtro e poi già l'accendo anch'io. Ah, io questo qua è nuovo, quindi è nuovo e mi sto dedicando con questo adesso. E il mio non è nuovo, c'è un po' di anni, però va sempre bene. Ah, anche gli altri io ho un po' di anni e gli ho, e i filtri li ho puliti quest'anno. Una ora sono tutti puliti. Poi vediamo. Adesso sto usando questo. Silenzioso. Ma cosa intendi? Anche il mio si sente. Io ho praticamente un prodotto che si mette per pulirli. Pulire il filtro, capito? Poi lo sciacqui, lo metti a asciugare e lo ripiani. Sì, anche a me me l'hanno dato il prodotto. Ciò che devo risalire a farmelo dare nuovamente. A me me l'ha regalato, quando me l'ha piazzato, mi ha detto questo qui te lo regalo. Ce l'hai metà e te lo usi. E me l'ha regalato. Ma che se non mi hanno dato nulla, non mi hanno dato. Non mi hanno dato nulla. Vabbè, questo che l'ha piazzato a me è un amico, capito? Ha fatto l'affare, ha preso dalla vendita che stava fallendo, che vendeva di queste cose, se li ha comprati e praticamente me l'ha dato di meno, capito? L'ha fatto bene, cioè sono buoni, sì. Sì, ce l'ho un po' di anni io, ce l'avrò minimo 6 o 7 anni. No, allora gli altri ce l'ho di più io di te. Gli altri che c'ho. Faccio uno da 12.000 in sala. E due da 9.000 e più questi due che c'ho, che ho messo da 10.000. No, i miei sono da 12. E i miei da 12. E uno però mi va per rinfresca tutta la sala, l'ho messo in sala, mi rinfresca le stanze, tutto il gatto. È bello, buono come... rinfresca bene. E anche quelli che ho io rinfrescano bene. Io uso gasagelli, anche visto che già sta rinfrescando. E più l'acqua la recupero in un bidone e me la uso per stirare, l'acqua distillata. Ma questi non si possono mettere perché ce li ho in alto. Questo ce l'ho in alto, quello di camera mia c'ho sul poggiolo e c'ho un bidone. Anche io ce l'ho in alto, ce l'ho dal poggiolo però in alto, capito? E sotto c'è il bidone, c'è la canaletta, è tutta attaccata al muro che qui va dentro il bidone. Ma anche questo c'ho, questo di fuori, qua cade fuori. Qua c'è quello del poggiolo, c'ho il bidone, c'ho. Un attimo solo che vado a vedere questa cosa che ci abbiamo mandato. Sì, hai la seghinoni. Tu le fammi dai che leggi Riccardo Inocchi. Ah? Ho detto a fammi dai che leggi Riccardo Inocchi un telefono. Sì, così fai, fammi danni e a fai danni. Sì, l'ho acceso perché era in carica, capito? Sì, aia. E fai quello che devi fare, non ti preoccupare. Allora. Allora, ciao. Fido. Sì, ho finito adesso, ho bevuto mezzo litro di bianchino. Ma ti beva la polizia. E mi dice, si tenga di gonfiarmi il palloncino che mi stiamo fare una festa. E dica, vabbè là, tanto non vi credo che abbia avuto. Non vi credi? Non vi credi? Allora non c'è testa, scusa, se devi viaggiare adesso si mette a bene. In che se devo viaggiare? Di 3 mesi devo andare a trovare a me. Vabbè, fate rubis. A che ora, Manuel? E 10 esco, 10:30 devo essere lì a lavoro. Ah, e allora già è un orario buono. Faccio 10:30, 6:30, 8 ore. Adesso stai bene che c'è fresco a quell'ora. Ehi, già per la fresca, già c'è la freschina stanotte, non ti preoccupare. Sì, ma adesso già si sta bene a una certa ora. Il brutto è di giorno. Di giorno ce n'è da morire, lascia perdere. Che cazzo, l'altro giorno già tra quell'ufficio c'erano cazzo 35 gradi. Lo so. Io lo so perché cazzo anche al capannone dove lavoravo io vera da morire. Ha diritto, ho cambiato il box qua, perché io se no chiamo l'ambulanza, mi sento male, poi voglio vedere se l'ho cambiato subito il box. Tempo di cose, ha chiamato quelli di Alghero, quelli dove hanno preso i noleggi e i box, adesso devono venire a cambiare e mettere il condizionatore. Faccio una vita, e se non guardo una cosa abbiamo andato tutto. E sabato libero sì, sabato e domenica. Sale servizio già sabato e domenica sono dalle 6:30 a 2:30 e vabbè, ma la sera sei libero, la notte è libero sì. E non lo so, praticamente non lo so. No, perché ci sono i bari anni 90 lì punto. E dov'è? Vicino dove c'è la chiesa. E è nello spiazzo che c'è lì punto. Domani c'è cabaret, c'è il signor Agnese, eccetera, e dopodomani ci sono i balli anni 90. Ma la carimina ha posto d'ora di coso, e oggi si chiama, fino agli altri corpi. Quello non lo sapevo. Cazzo di risate, l'ho visto tramite coso su TikTok, l'hanno pubblicato. Sì, l'ho visto anch'io su TikTok, però io non sapevo che c'era, se lo sarei sceso. Ero vissuto da brividi, da cose, allucinante. È bello sì. Ah, io vedo da vagare, cazzo, per carità. Vabbè, come lavori così? Io lavoravo il sabato anche la domenica lo stesso. Quando mi capitava che ero di turno lavoravo anche la domenica. Io sono due anni e mezzo sono questi qua, da quando sono stato con loro, cazzo, manco riposo. E te li fai pagare? Perché ti pagano, non te li pagano, per carità. Ma là, quel posto che mi avevi detto, non te lo chiama? No, no, mi devo lasciare perdere perché è un fiacco di Daura, ti dice che non pagano, va via un po' di denunce, la capisci? Basta, ha detto tutto, uno peggio di là. Appunto, ho fatto la vita, mi sono che di ma con gli amici vi dai, a chi che pagano nel puntuale. Quel po' che ti danno, ti danno puntuale. Infatti, almeno la sicurezza ce l'hai. Cazzo, ma chi che dice che cazzo verrà niente, i tre mesi sono stati per la dirà. No, così non fa, lavorare gratis non fa. Ma so se che è un lavoro usurante anche, perché devi lavorare la notte e cosa. E poi non ti pagare il muro, che se la si vuole. No, no, se ce l'ho stato io che non mi avrebbe pagato tre mesi come dicono, cazzo era andato in ufficio e l'avevo mandato la scivania io. E cos'è nuova questa ditta? Sì, sono un anno ci sarà neanche, ma per carità. Trampusing, vabbè. Per andare in piedi vedo dove sta. Infatti mi sono venuto. Infatti mi sa dove sono Emilio, mai lasciare la sala vecchia per un'altra che non conosci. Chi è avanti? Chi è che chiama? Vabbè. Emanuele, se c'è da migliorare va bene, ma se per peggiorare. Appunto, io se vado vado a migliorare, no? A andare a cazzo a peggiorare. Adesso vediamo, un po' di domande le ho fatte, però è un casino con questi lavori qua. Vabbè, ma tu c'hai già un curriculum e quindi è capace che ti chiamino. Se tu presenti il curriculum dove ho lavorato, a Milano, eccetera, eccetera, ne tengono conto di quello. Sì, lo so, ma no, adesso non è più così, già. Adesso se non cerca fare dare bella curva in corsi, no, non entri. Ormai è tutto roba da in corsi, è tutto roba da in corsi. Sì. Lo so già, non da adesso, da un bel... Io ho un amico che è dentro e mi ha detto come funziona la studio. Ma già lo so anche io, forse no, non è da valuto. Ma no! Ehi, dai, mi dico a Emanuele, così almeno c'è la porta. Ci somiglia! Ormai non manco un metro poco, 9 anni, ci manco, e più. Ma io così tanto, no, io ho 5 anni. No, io 9 anni ho fatto, a gennaio ho fatto 9 anni. Poi a gennaio prossimo ne faccio 10. Va bene, là. L'interessante è raccontarle e godersene, questa pensione. Ma ci sono treni che ha dei calci, mi sono disegni, sono in treni. Che non ne chiamano manco di travagliare. Arrivi, mi godersene un volo. Un camioncino ci basi in mezz'ora di giostra e poi inviotano 10 contenitori e poi un'altra mezz'ora di giostra hai andato più di fine nel bagno e anche io mi seguo una motoretta che spazza si imbosca vicino a casa e se ne sta al cellulare ma ci sta un bel po' io esco col cane ritorno sempre per minchia. E allora ci vedi chi sono di noi, ci vedi una via, si lavora un fuoco e poi ci usiamo dentro la moto. Così fatti no. E da poi andiamo a passare con un caso, ti prendo di questo, non mondo arrivato. sì, dai, certo. Passi così e rimani così. A me non mi piace, ma non lo subito. Ma poi prima di tutto che non ti si bassa la lì. E uno se paga che per la guai deve farlo seriamente, non è che può farlo a bidai e cosa. Una cosa se non ce la fa, perché magari non c'ha il tempo, però se ha il tempo, nel tempo che deve lavorare, non deve usare un telefono di zitto, ma non ce ne so contro, prima uscivano quelle ronde che controllavano, se spazzavi e così. Ah, lì si saranno imboccati più dell'altro. Fatti, baccia un poco. Ma giochiamo ad uno. La democrazia. Chi la di sopra. La macchina, guarda. Guarda perché già c'è la dormito. vabbè, una volta questo amico mio che doveva andare in Piazza d'Italia, coso, l'ha fregato il sonno, non si è svegliato, e se l'hanno pulito. Sì, vabbè, anche a me mi ha fatto il sonno molte volte. Oh, andavo in ritardo e filmavo, cioè sono entrato e filmavo l'uscita ugualmente. Ma che sono proprio dormito, beh, allora si è andato la sveglia e si è lasciato dormito, che se non si è scendato. Io che devo andare a lavorare. No, a me molte volte dovevo svegliare alle 3:30 e molte volte mi ha fatto un sonno e ho citato le 5:30 a risere e sono entrato, non ti dicono nulla, basta che fai un travaglio. Ma se mettessi la sveglia, dai. Ma a voi non è una montagna d'altro capiteggia. Lui l'aveva messa, ma si è dimenticato di salvarlo, capito? Quindi non gli ha suonato. A me non ho sempre fatto il mio lavoro, quindi non me ne di proprio nulla. Vabbè, ma tu dormi ai cassonetti? Prima ero col camion, a capo i cassonetti dietro. E la giubbata sia temporale, Eva, Ruggiori e con tutto, Adinotti. Faccio qualche cosa io. Quando lavoro a guido con il cane, anche se stava più o meno, dovevo scaricare dei negozi, c'è poco da fare. Va bene, vale. Quindi hai conosciuto Albino tu? E me la sta a capo che io trovo là, non le devi di nulla. Lo so, adesso è pensione mi pare, no? Non lo so, ma non pensavo se è pensione da un anno. No, prima l'avevano messo all'isola dove ci dove butti i rifiuti, dai, all'isola ecologica. E poi non lo so se è andato in pensione da lì. Non lo so se c'è ancora. Infatti devo portare un po' di cose e non lo so se portarle su al monte o se portarle giù a Canica. La roba grossa, se la devo portare anche al quadrato. Ah, si deve stare anche da sopra. A Canica c'è il sorvegliante mi conosce, quindi se vado dove c'è lui, se no sta sopra Roma Pesce. Infatti, e guardate, il martedì mi pare che le tirano la Roma, mercoledì. Su otto parco salgo faccio prima. E lì ti dicono, quella la mette lì, l'altro la mette là, il cassoletto numero uno, ti dicono dove la devi mettere. Ci sono due colleghi che conosco lì. E Albino era diventato importante, praticamente mandava il camion fuori a scaricare la roba, non so dove, però so che organizzava tutto il lavoro. Organizzava. Non lo conosco bene che organizza, chi c'è di un comune perché organizza, Alfredo. Fate caricare i kiwi e boh. che cosa con sua pazzia? No, dopo non l'ho promosso, lui mandava il camion a scaricare, eccetera, non lo so cosa faceva esattamente, però adesso io lo vedo da Italy vicino a casa perché fa la spesa lì con la moglie. E almeno era un bravo pugile, quando era ragazzo le ha avuto un bel incontro. Di problemi, un po' di problemi, sai dove era Mughini? Ma da ragazzo era attivo, ci sto dicendo che era un bravo pugile, vinceva molti campionati, molti incontri. Oh, non ho avuto mai nulla io con lui, un bel altro gli hanno avuto un bel di cosa con lui. Non io con lui mai avuto nulla, ma ci vediamo sempre tranquillo. Perché è un po' rissoso, no? Se voi si va attaccato a pagare la colazione, non mangiare. Ma io lo conosco perché stava alla Sacro Cuore dove abitavo io, sia lui che Marco, il fratello, frequentavano lì, capito? Non è che siano proprio amici, pure li conosco. Adesso abita su al monte, in alto. Io non so dove abita, lo stanno rifacendo quel palazzo, lo stanno rifacendo la facciata. E lo so dove abita, dove c'è la rotatoria per salire verso il Ponte Nuovo. Il cappotto gli stanno facendo? Non lo so, perché adesso c'è caldo, se lo metto. No, io... Sono un sacco di volte l'ho trovato. Cadeva già uno, due che ti fa mi pare. Ha già uno. Si è cambiato la macchina. Perché l'altro non si poteva più aggiustare fuori strada che c'aveva. Anche la testa da Maria l'ho trovata. Ma parliamo una macchina, parliamo un coso, un porcino e Maria. Mi ha detto un fratello che il garage, come apri la serata, ne caghi tutto cazzo in terra, perché tutta la roba che raccogli si lavora in garage, dice che è pieno a mocca tutto. Fare dai. Non è così che si lavora e si raccoglie. Siamo di 25 anni. Vabbè, una cosa di bussi vivi, ma non cazzo che devi pulire tutto durante un garage. Vai. Però lui mi ha detto, non fare mai cambi la serata, li para tutto. È pieno a bocca. Io faccio dal villaggio bianco un magazzino, ma è pieno di cosa che ho comprato, non di cosa che ha già avuto. Che ho comprato, l'ho messa da parte, e mi è avanzata, e ho tentato. Poi arrivo a un certo punto, gira rampo. Guarda, io sono andato a Portobello una volta, e ho trovato nei turbini di Portottolo, c'è ancora con la tuta nel turbino, perché c'è gente che sta tutto il giorno con la tuta a lavoro, che non si chiama il manco. E lì vendevano la roba che trova la discarica, capito? Io lo sapevo, io lo so chi sono, sono sempre i soliti. No, io, come arrivi a casa, mi faceva la luce anche da me, Giambavo. Ma non rimanevo con la roba di lavoro, cioè come l'armadietto e me la lasciavo là. Poi ce n'era uno che veniva a fare la spesa, sempre con la divisa... Finito di lavorare, venivo a fare la spesa, poi lo vedevi la sera sempre con un mattino di roba. No, io lo pigliavo una capamennina. Già mi si avviato da chissà roba. Io la telefono due giorni, tre giorni al massimo, poi me la giambavo un buro. La portavo a casa e la fare torno. Poi quella roba lì voleva la tappare, la puoi mettere in mezzo alla roba che la vedi in casa. No, infatti me la lavavo a parte, la lavavo, e me la mettevo pulita, massimo due giorni, tre giorni al massimo, in domani me la giambavo, me la ricavo pulita. Poi se sei a Casoletti, chissà, rubiamo d'estate, deve essere micidiale per quel lavoro. C'era odore, poi ma il furgone a ritirare i medicinali, la roba elettrica e le batterie. Erano divise tutto il paio. Sì, no, i contenitori ci sono. Ah, ci sono i contenitori nelle farmacie per i medicinali scaduti. Un giorno facevo i contenitori nelle farmacie, un altro giorno facevo la roba elettrica, un altro giorno mi facevo le batterie. E poi riuscite a fare i medicinali? Venivano stoccati a Porto Torresi, c'era questa ditta che li smaltiva e li mandava a Cagliari. E magari li riciclano? Poi non li riciclano, vanno bruciati. Una volta a Monte Rosio, la discarica di Porto Torresi, sono andato a buttarci il cartone vuoto che facciamo lui quando sistemiamo la roba, che facevamo. E sono andato a buttarlo col camion, è arrivata la finanza e gli ha detto: mi faccia un foglio di distruzione di droga e di cose, di cassette masterizzate, eccetera, eccetera. E praticamente hanno bruciato un bel di roba, carta, hanno fatto un fuoco grande. Erano tutta bruciata, poi ha fatto mettere la firma a quello della discarica, quello che guida la Russia, e c'erano cassette, ce n'era una, c'era scritto ballabili, e che guida la discarica, mi già piglia di chissà, ballabili, e cose francese, mi ha detto, guarda, prego, te la vado a dire nulla che te l'ho data, e c'erano tutte canzoni ballabili, tutte belle, la discoteca, cosa. La discarica un bel po' che ha già avuto il coso di CD masterizzati nuovi nuovi, ma mi ha giubilato, cattano altri che noi fatti per proprio. Allora un giorno è arrivato questo camion pieno di pesce fresco, fresco appena pescato, e lo dovevano distruggere perché praticamente per darlo di meno di prezzo preferiscono distruggerlo, buttarlo via. E praticamente mi ha dato una caccia a me, una caccia a chi, sarà fresco, mi ha appena pescato, però siccome non glielo vogliono pagare come vogliono loro, si urappa, hai capito? C'erano bugi di sardine, di tutti i bici. Certo, ma sono non giù quel fondo di bomba alla discarica, non ho mai avuto di così. Ho trovato questi qua che avevano appena gettato i CD, i videocassette, avevano buttato quelle piccole. Mi ha svegliato un poco, mi ha svegliato. Non stavo cambiando, mi ha caricato nella macchina. E me l'ho portato a casa. E allora vabbè, funzionava. E una volta questo uomo è venuto disperato. Ragazzi, mia moglie ha fatto uno sbaglio, pulendo la soffitta avevo nascosto 7 milioni, allora c'erano le lire. 7 milioni dentro una scatola, li stavo conservando. Mia moglie ha fatto pulizia, ci ha buttato lo scatolone pensando che fosse tutta roba vecchia, e invece c'erano i soldi dentro. Cazzo, e adesso non li trova più, oramai abbiamo buttato l'altra roba sopra con la ruspa, non ce la fa più a trovare. Come ti viene andato, comincia a litigare e furugiare da rondezza. Fatta. Proprio da Bagoggio. Su a Osimo abbiamo trovato una busta con 700 mila franchi via, gli dritto. Che lire erano? E ce l'avevamo divisi in tre. Vabbè. Può succedere, perché se non stai a guardare quello che butti, ti può succedere che butti una cosa che non devi buttare, capito? Torna, io tu me lo dici, solo io ti lascio, dai, devo andare a portare il cane. Allora Gianni, ci risentiamo alle prossime, ok? Stammi bene, e buona cena di pipa. E altrettanto, sì, dopo la faccio, dopo che torno col cane, dai, mangiami e mangio io. Vabbè, lettore, dai, buona serata anche a te, ciao a tutti gli altri che ascoltano e che non entrano. Ciao a tutti. Ok, già, ci risentiamo alle prossime.